Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Facciamo una volcada o una golgada? Cosa vuoi fare? Una colgada facciamo. Colgada, vai. Vabbè. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi tanghiamo. Fisicamente tango. Il ballo argentino sembra fatto su misura per provare, verificare e confermare le leggi della fisica. I neutrini sono entrati nel tunnel, ma è quello dei favorevoli e dei contrari. In galleria non si sorpassa facilmente, anche se si va più veloci della luce. Si dicono tante cose sui dinosauri, ma sono tutte vere? Un abile blogger ci aiuta a separare il falso dal vero. Tina, la caldaia che non inquina, vince un premio e se lo merita. Un hamburger da 250.000 euro. Il prezzo della carne artificiale è ancora fuori mercato. Ma quando le staminali entrano in cucina, il dibattito si infiamma. Senta, Filocamo, io sono qua. Chiara, stai un attimo ferma. Federico, sono qua, che sto facendo un casché con la Chiara, però la Chiara... No, no, cosa state facendo? Federico, te lo sto dicendo. Allora, avvicinati al microfono. Vabbè, dai, spegni. No, no, niente casché, non è tango argentino, il casché non c'è nel tango argentino, ecco, come ve lo devo dire? È quello che sostengo da circa un quarto d'ora, Federico, da prima della trasmissione. Io stavo cercando di impegnarmi per creare un po' di clima, e invece... Allora, Giovanni Filocamo è qui con noi, fisico, sì, ma è un anche, fisico, ecco, ma anche diciamo. Un tanghero. Lei balla il tango? Sì. Molto bene, io l'ho visto settimana scorsa in occasione del Varenna Fisica Festival che si è tenuto tra Lecco e Varenna, dove si è esibito nello spettacolo Fisicamente Tango, tratto dal libro Fisica in Ballo, e appunto dove spiega che il tango è quasi fatto apposta per spiegarci le leggi della fisica. Però un momento, lei ha detto che il casché non fa parte del tango, questo è una... Ah certo, questa è una delle regole. No, il casché serve soltanto a farsi male alla schiena, secondo me. E com'è che è venuta fuori questa cosa che invece questa tu... È una delle tante credenze, diciamo così, della maggior parte delle persone, no? Quando che credono che il tango sia uno solo. Invece c'è una grande distinzione da fare tra tango argentino e il tango alla Rodolfo Valentino, diciamo così. Quello dove con c'era il casché. La rosa in bocca e così via. Nel tango argentino non ci sono rose in bocca, non c'è casché, non ci sono figure prestabilite, è tutto improvvisato e si balla nelle milonghe di Buenos Aires, ma ormai di tutto il mondo, tutte le notti. Oh, e quindi perché il tango è fatto quasi apposta per spiegare la fisica? Ci sono svariati motivi. Anche la danza classica si presta moltissimo, ma questo la danza classica non ho ancora... Lei non la svolge? No, ne parliamo un'altra volta. Invece, mentre studiavo tango argentino, i maestri mi stavano praticamente spiegando quelli che io vedevo come teoremi della fisica, no? Allora mi sono detto, ma qui ho indagato un pochettino, ho fatto un po' due pensieri e ho pensato che oltre a ovviamente tutti i principi della dinamica, perché si parla di corpi in movimento, c'è anche la questione, come vi dicevo prima, del fatto che non ci sono figure prestabilite, ovvero è tutto improvvisato e questa improvvisazione avviene grazie a una precisa tecnica dove rientra moltissimo la fisica. Secondo noi, diceva, insomma, dovrebbe esserci questo concetto base del centro di massa, no? Del baricentro, sì. Quello poi è importantissimo, perché proprio i maestri argentini di tango spiegano che ci deve essere, ognuno deve avere la padronanza del proprio baricentro. Loro magari non conoscono la fisica, quindi te lo spiegano con altre parole, no? Quindi ognuno, diciamo, deve avere la padronanza del proprio equilibrio, perché noi sappiamo che il baricentro poi interviene nell'equilibrio di un corpo. Sono due persone che ballano, ci sono due baricentri, vero? Esatto. Sbagliato. No. Ce ne sono tre baricentri. Si considera anche il baricentro della coppia. Ma dove è posizionato? Il nostro baricentro più o meno è posizionato all'ombelico, diciamo. Sì, sì, all'altezza dell'ombelico, però è posizionato nella parte, diciamo, vicino alla schiena, ecco, non nella panza. Ecco, no, aspetti Filocamo che spieghiamo un attimo. Se uno si sporge troppo, cioè si inclina troppo, succede che il baricentro non cade più nell'area dei piedi e uno va per terra. Soprattutto se teniamo i piedi uniti, se allarghiamo le gambe, è più facile avere equilibrio. Lei ci sta dicendo allora che nel tango, dove sono in due, questo baricentro va da tutte le parti e devono essere abilissimi. Dunque, Sappiamo che baricentro, per mantenere la stabilità di un corpo, la sua proiezione deve cadere in quella che si chiama l'area di stabilità, no? Che è un'area, è come dire, che abbraccia tutti i punti che sono appoggiati per terra. Più questi punti sono larghi, come sappiamo, e più quest'area diventa grande, quindi più è difficile, diciamo così, finire per terra. Ci sono dei modi per aumentare questa superficie di stabilità e anche l'eleganza del ballo. Cioè, questo non è un ballo solo tecnico fatto per fare chissà quali capriole, chissà che cosa. È un ballo che è nato popolare, che è nato dalla esperienza popolare, e le persone che hanno innovato il tango, probabilmente di fisica negli anni non ne sapevano niente, eppure sono giunti alle stesse conclusioni che sono giunti i vari scienziati nel corso della storia. Poi ovviamente quando si balla non si pensa più né a baricentri né a forze, vettori o cose di questo tipo. Non ci penso neanche io, per carità, neanche nessuno pensi questo. Io penso tanto alla musica, a rilassarmi. Vabbè, allora tolgo il casquet dal nostro programma di tangate. Eliminiamo il casquet e potreste inserire qualche passo di tango nuovo. E che vuol dire? Il tango nuovo, no? Il tango elettronico, il tango che nasce da Piazzolla e così via. Bene, sul baricentro c'è stato uno studio. Ci sono due passi, diciamo due figure che sono state prese a prestito da altri balli che si chiamano Volcada e Colgada. Ne parlavamo. all'inizio, infatti. Queste figure qua praticamente cosa sfruttano? Il fatto che, come vi dicevo prima, se i due baricentri sono stabili, anche il baricentro della coppia è stabile. Questo è abbastanza intuitivo, no? E fin qua non ci piove. Benissimo, con questi passi si può fare di più, cioè si può fare in modo che i due baricentri dei singoli ballerini siano instabili, cioè uno cadrebbe, ma grazie all'unione, grazie all'abbraccio, grazie al fatto che i due corpi sono uniti, si fa in modo che il baricentro della coppia invece sia stabile. Ma questo è meraviglioso, ma com'è possibile? Cioè, ci spieghi un attimo com'è la figura per avere... Vediamo per prima cosa la colgada. La colgada, immaginate i due ballerini, invece come se fossero due sbarrettine, una di fianco all'altra, sono due sbarrettine che formano una V. Una V. La lettera V, proprio. Quindi no? Con i piedi vicini e le spalle lontane. Esatto, i piedi vicini e le spalle lontane. In ogni caso, la cosa interessante è che se le due persone si lasciassero, cadrebbero. Cadrebbero, no? Invece la volcada è al contrario, immaginate la V rovesciata. Una. Un po' come nel codice da Vinci, no? Le due figure chiave del codice da Vinci, no? Il calice e la lama, ecco, se vogliamo fare questo riferimento, in cui i piedi sono lontani e invece i busti sono proprio attaccati, no? E grazie a questa all'unione di questi busti ci si tiene in equilibrio insieme, un po' come quando si facevano i castelli di carta da bambini. Molto interessante, Filocamo, verremo lezioni di tango da lei. Per intanto grazie. Senza casché, però, mi raccomando. Senza casché, assolutamente. Grazie, buon lavoro. Arrivederla, Filocamo, buon lavoro. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Fra poco parliamo di neutrini, ma prima c'è il quiz. Domanda rapidissima: i dinosauri cacciavano in gruppo? Una risposta: sì, scriverete sì, ovviamente. No, scriverete no. Sì, ma solo i velociraptor, e scriverete raptor. La risposta, questo lo sentirete fra poco, perché parleremo anche di dinosauri dopo i neutrini. Che cosa si vince? Si vince il libro Mai più paura della fisica, come fare pace con entropia e piani inclinati, di Giovanni Filocamo, che abbiamo appena sentito, edizioni Kowalski. Questo libro è offerto da libreriarizzoli.it. Naturalmente vi ricordo che dovete mandare le risposte al 349-238-6666 con un SMS. Inevitabile, facciamo il punto sui neutrini, lo faccio con Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. E con Marta Fabbri. Ciao Marta. Buonasera. Editor di colanne di saggistica scientifica per l'editore Sironi, colanne nei quali spesso si parla di storia di scienza e quindi ci siamo con questa vicenda che sarà anche storica. Barbara, tu hai scritto un articolo che è uscito sulla Stampa che dedica una prima parte alla vicenda Zichichi, perché nelle prime ore, insomma, si è un po' partiti da questo personaggio che ogni tanto ne fa di strane e l'abbiamo criticato dicendo che lui aveva rotto l'embargo. Non è stata così, no? Non è vero che Zichichi... No, non è andata così. Intanto, diciamo, è chiaramente coinvolto in questa vicenda dei neutrini, perché è stato il primo a proporre questo tipo di esperimento con un fascio di neutrini dal CERN al Gran Sasso, ed è il padre del laboratorio del Gran Sasso. Bisogna dire. E quindi era successo che lui quel giorno era stato già contattato da vari giornalisti che gli chiedevano notizie, e lui si è limitato, anche con il giornalista che poi ha fatto uscire la notizia per primo, a dire che ci sarebbe stato un seminario che avrebbe trattato questo tema. Non è andato nei dettagli della scoperta scientifica, del risultato scientifico, ed è c'è da dire che la reazione di molti è stato: beh, non potevano pensare di tenere segreto una roba del genere fino a dopo il seminario, anche perché era stato annunciato e straannunciato, e bisogna dire che lo sapevamo veramente. Vabbè, state seguendo un po' tutte e due, e anch'io, insomma, questa vicenda. Che opinioni vi state facendo sul fatto che ci siamo, non ci siamo, c'è un errore o non c'è un errore, Marta? Beh, allora, io ho una formazione... Tu sei anche fisica di formazione. Fisica, cioè. Esatto, però non faccio fisica ormai da 11 anni, quindi seguo questa cosa dalla dovuta distanza con la dovuta umiltà. Proprio il tema dell'umiltà, tra l'altro, è attuale e riguarda moltissimo questa vicenda, perché mi sembra che ce ne sia stata molta anche da parte degli scienziati. Sì, che non hanno per niente cercato di approfittare della data della notizia, continuano a insistere dicendo che assolutamente vanno ripresi i dati, bisogna controllare. Diciamo che questa cosa però ha suscitato immediatamente un entusiasmo e una sorta di tifo da parte degli italiani, poi, perché insomma le prime battute che sono state fatte su questa cosa erano davvero: ah, insomma, mettiamo Einstein nel cassetto, eccetera, eccetera. Non sto parlando degli addetti ai lavori, ma insomma di un anello più ampio, no? Di persone che hanno cominciato a commentare questa vicenda, mentre in realtà chi sa come funzionano le cose in fisica sa che bisogna sempre essere molto prudenti, e che un risultato come questo viene accompagnato da una cosa che è la sua significatività statistica, e sul calcolo di questa significatività statistica, insomma, credo che si svolgeranno i prossimi confronti. Il problema è che rifare questo esperimento non è cosa che avviene in tutti i laboratori, bisogna avere delle condizioni molto particolari. Adesso gli americani probabilmente riusciranno a rifarne un altro, no Barbara? Una cosa che non si è detta, che in realtà un'indicazione in questo senso l'avevano avuta anche gli americani tempo fa, solo che l'avevano avuta, come diceva Marta, un problema di significatività statistica, l'avevano avuta con un errore di misura tale che di fatto era impossibile trarre qualsiasi indicazione. Cioè loro gli sembrava di vedere che i neutrini andassero un pochino più veloci della luce, però con un margine di errore tale che non consentiva proprio di dire nulla. Ora, è possibile che loro in qualche modo possano rivedere, come dicono alcuni, quelle misure lì, o comunque rifarle prendendo degli orologi, tra virgolette, non proprio degli orologi atomici, ma degli orologi più precisi, e quindi vedere se vedono lo stesso effetto che vedono gli italiani, la collaborazione basata in Italia, la quale ovviamente dal canto suo non starà ferma, continuerà a prendere dati. Ma si sa, c'è qualche sospetto di un baco particolare nella cosa, oppure insomma il problema è ancora molto aperto? Dunque, c'è una cosa che comincia a essere guardata con attenzione, che è un po' complicata da spiegare. Diciamo, i neutrini si producono da un fascio di protoni, no? Il fascio di protoni interagisce contro un bersaglio e questo genera una serie di eventi che portano alla produzione di neutrini. L'unica cosa che gli scienziati possono vedere alla partenza è il momento della partenza dei protoni. Dei protoni. Ora, questi protoni possiamo immaginarli come un treno che per passare impiega qualche cosa dell'ordine dei milionesimi di secondo. Il ritardo dei neutrini è dell'ordine dei miliardesimi di secondo. Basta che ci sia un problema di corrispondenza fra il tempo di partenza e di produzione dei neutrini al CERN e il lasso di tempo in cui arrivano al Gran Sasso, perché si spieghi questo apparente anticipo, che in realtà sarebbe dovuto semplicemente, per dirla in maniera molto semplice, al fatto che i neutrini partono prima di quello che ci si aspetterebbe. Oh, in conclusione però mi viene da un monito, insomma, adesso si aprirà appunto l'incontro scontro per capire dove ci sono gli errori e se ci sono, però ecco Marta, ne parlavamo prima della intervista, qui c'è un problema insomma di correttezza nella battaglia dura. Tu facevi l'esempio del rugby, che mi funziona molto bene, no? Sì, anche perché ci sono in corso i mondiali di rugby, probabilmente. Esatto. Mi è venuta in mente questa analogia. Credo che in questa occasione mi sembra che sia la prima volta in cui anche le persone che non si occupano di scienza in termini professionali hanno modo di capire come funziona davvero il conseguimento di un risultato che poi è condiviso dalla comunità scientifica, perché un conto è appunto l'annuncio che c'è stato e tutto quello che ne è seguito, un conto è appunto quello che verrà e in particolare che cosa succede. La cosa bella di questo caso è che da una parte c'è una misura molto semplice, che è una misura di velocità, e anche l'uomo della strada sa che la velocità è spazio fratto tempo, quindi è abbastanza facile spiegare tutto sommato che tipo di misura è stata fatta. L'altra bella cosa, l'altra bella coincidenza è che è stato tirato in ballo questo personaggio che è Einstein, che ancora fa breccia tantissimo nell'immaginario. Assolutamente sì. È molto bello vedere che in effetti in un certo modo le persone stanno più attente se tu gli dici che tutto sommato forse non è chiaro se Einstein aveva ragione o no. E allora questa occasione, questa attenzione maggiore da parte del pubblico, secondo me può accadere che dia luogo a una maggiore comprensione del metodo che c'è oggi nella scienza moderna. Quindi con grande emozione e però con grande correttezza hanno posto la questione ai loro colleghi, e i loro colleghi con grande sportività hanno accettato la sfida. Come si fa nei campi di rugby, cioè molto duro ma con correttezza. È vero che in altri casi storici invece ci sono delle modalità di confronto scorrette, e quelle non producono conoscenza, non producono scienza. Bisogna dire che il primo giro l'hanno passato molto bene. Molto bene, molto bene. Al di là di questi sospetti che si possono creare, che ho anticipato prima, che però non sono ovvi, non si riferiscono a fenomeni ovvi, a interferenze ovvie, comunque il risultato sembra molto solido. E dal mio punto di vista, anche se non dovesse alla fine essere significativo dal punto di vista statistico, si saranno imparate un sacco di cose, quindi è comunque un risultato importante. E al di là appunto della comunità dei fisici nel senso stretto, secondo me è importante anche per questa ricaduta che avrà sul largo pubblico in termini di conoscenze scientifiche. Io direi che ha avuto forse anche una ricaduta più ampia, perché in un momento in cui ci si sente fieri di poche cose che avvengono nel nostro paese, questo ha dato, è stata in qualche senso una buona notizia. Abbiamo dimostrato di avere un laboratorio che è un'eccellenza su scala mondiale e dei ricercatori che sono altrettanto di eccellenza. Grazie Marta Fabbri e grazie Barbara. Grazie Federico, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, Chiara, che si dicono troppe cose imprecise, sbagliate sui dinosauri. Sì, è vero. Questo è assolutamente vero. Ho lavorato per un po' al Museo di Storia Naturale di Milano e in effetti i bambini hanno un immaginario, e non solo, veramente un po' sballato dei dinosauri. Ci aiuta in questi chiarimenti Andrea Cao. Ciao Andrea. Buonasera a voi, ciao. Blogger di scienza. Noi stiamo ospitando un po' di blog, li stiamo lanciando. E il tuo si chiama? Teropoda. Teropoda. theropoda.blogspot.com. È un sito, un blog fatto molto bene, siamo incentrato quasi completamente sui dinosauri, che sono estinti. Lei ha ancora cose da dire, Cao? Quelli dell'immaginario collettivo sono estinti, però per i paleontologi ci sono 10.000 specie di dinosauri oggi al mondo, perché oggi sappiamo che gli uccelli sono di fatto un tipo particolare di dinosauro. La gallina che fa le uova sarebbe un dinosauro. Esatto, sì. Quindi dire che sono tutti tutti estinti è sbagliato, anche se insomma vabbè, forse questa è la cosa meno sbagliata, non so come dire, sì, certo, è più un cavillo di terminologia, ecco, diciamo. Oh, invece altre cose grosse che si dicono qui, ci siamo presi un po' nota, esempio, erano sempre tutti giganteschi, enormi. E molto lenti anche, che si muovevano con gli zamponi. No, anche questo è un vecchio stereotipo dell'Ottocento, già il fatto che gli uccelli sono dinosauri dimostra che alcuni erano molto piccoli. Si va dalle dimensioni di una gallina, parlo di quelli estinti, dalle dimensioni di una gallina, alcuni erano grandi anche come dei bovini, ad esempio, o dei cani, quindi non tutti erano dei giganti colonnari. Ecco. Ecco, infatti qualche settimana fa, non so se Federico ti ricordi, abbiamo parlato di Ciro, il nostro dinosauro piccolino. Che era piccolissimo, quello era particolare perché era un cucciolo, Scipionix sanniticus, che è il dinosauro italiano. Quindi c'erano di tutte le taglie. L'adulto. Anche l'adulto non sarebbe stato molto grande. Esatto, è vero. Nel nostro quiz, che gli ascoltatori e ascoltatrici hanno appena sentito, noi abbiamo detto, ma i dinosauri cacciavano in branco, e abbiamo detto sì, no, e poi abbiamo detto un solo tipo, il Velociraptor. Beh, il fatto che avete specificato il Velociraptor c'entra con la risposta, nel senso che il mito del fatto che i dinosauri caccino in branco è nato con un parente stretto di Velociraptor, che fu scoperto negli anni 70, vari esemplari della stessa specie associati ha uno scheletro di un erbivoro. E tra le varie interpretazioni, però, era come dire una tra le possibili alternative, non per così dire quella più accettata dai paleontologi, ci fu quella che fossero un branco, un gruppo di carnivori associati per uccidere questo erbivoro. In realtà di recente è stato ristudiato questo sito e si è visto che l'erbivoro era praticamente morto alla fine di una stagione secca e i carnivori hanno praticamente lottato tra di loro per contendersi questa carcassa. Quindi non cacciavano in branco, la risposta è no. Non ci sono, anche perché oggi i cacciatori di gruppo sono tutti animali con un cervello molto complesso e nessun dinosauro del passato aveva cervelli così complessi per poter, come dire, coordinare questo tipo di attività. Un po' è anche colpa di Jurassic Park, però. Sì, perché Jurassic Park, come dire, ha raccolto tutta una serie di miti che si sono sviluppati tra gli anni 60 e gli anni 80 e ne ha fatto un film. Il problema è che oggi noi abbiamo in parte superato questi miti. Ecco, io mi ricordo insomma che una delle domande che i ragazzi facevano era appunto che si chiedevano se i dinosauri allevassero la prole come fanno i nostri mammiferi oggi, quindi come le mucche, gli agnellini, eccetera, eccetera. E come vediamo nei cartoni animati, ci sono i dinosauri col cucciolotto che si nasce, attaccano alle mammelle della mamma. Esatto. Ecco, per carità. Anche lì si tratta di miti nati negli anni 70, quando si cercò di rivalutare il vecchio modello ottocentesco. Il problema è che questi miti andarono molto oltre i fatti scientifici. Noi oggi sappiamo che i dinosauri non abbandonavano le loro uova, che praticamente si comportavano come oggi si comportano i coccodrilli o anche le galline. Ecco, appunto, sono rettili, quindi fanno le uova. Sì, esatto. In pratica, da quello che sappiamo, i piccoli uscivano dall'uovo già in grado di muoversi, di nutrirsi, al più il genitore per i primi giorni controllava che non fosse, per così dire, in pericolo, ma dopodiché erano assolutamente in grado di vivere autonomamente i giovani, quindi non avevano bisogno di intense cure parentali. Scusi la domanda un po' sciocca, ma per chi non fosse addentro all'argomento, dinosauro, come lo distinguiamo da un rettile, una lucertola, un coccodrillo? Principalmente la struttura delle gambe, l'articolazione tale che possono avere le gambe erette, mentre i rettili normalmente hanno una postura con le gambe più divaricate. Una delle cose che si diceva tempo fa come motivazione della loro estinzione era che erano stupidi e quindi un sacco di cose che avrebbero dovuto fare non le hanno fatte e sono morti. Non è anche questa, è una leggenda. Non è assolutamente credibile, se non altro perché oltre ai dinosauri sono estinti molti altri gruppi di animali, sia nelle terre che nei mari. Sembra strano pensare che la stupidità di un gruppo incida sull'estinzione di tutti. È probabilmente un motivo legato forse a un fantomatico impatto di un asteroide che è stato rinvenuto il cratere nel Messico, e gli sconvolgimenti ambientali avrebbero, come dire, distrutto le catene alimentari, e i dinosauri erano all'apice delle catene alimentari, quindi furono i primi a soccombere. Infatti c'è una bella bagarre sulle motivazioni di estinzione dei dinosauri. C'è qualche teoria nuova, visto che lei è così aggiornato? No, ormai si sta consolidando questa qua degli effetti ambientali di un impatto tra un asteroide e la Terra, anche perché è l'unica che ha dei dati sicuri, perché abbiamo livello, proprio a livello tra il confine tra l'era dei dinosauri e quella successiva, è proprio questo livello che mostra tracce di polvere di origine astronomica, come dire, extraterrestre. Quindi, avendo anche il cratere, tutti i dati sembrano collimare l'ipotesi lì. C'è uno strato geologico che segna la presenza di un evento di quel genere con alta probabilità. Si dicevano anche che erano stupidi perché quelli grandi avevano il collo lungo. Io mi ricordo perfettamente questa cosa, non ridere tu che no, sei qua. No, io dopo ti dico. Avevano il collo lungo e quindi gli arrivava poco sangue al cervello. Sì, allora le giraffe. Esatto, sì. Si diceva questa cosa, Cau? Sì. Tremenda. In passato si pensava anche che avessero un secondo cervello a livello del bacino. Per riuscire a recuperare. Esatto, ma a me sembra solo un eccesso di antropomorfismo. Sì, cioè, tutti quegli animali che non assomigliano a noi, noi ci stupiamo di come possano vivere, ma come dire, il cervello è forse uno degli organi meno utili per sopravvivere. E poi le caratteristiche fisiche, questo è molto interessante, vengono spesso rappresentati con delle creste meravigliose, con dei pungiglioni, ecco, sono verosimili o qualcosa è vero, qualcosa no? Parte sì, è verosimile perché molti dinosauri mostrano creste o spine ossee che generalmente in natura portano poi delle spine ancora più lunghe fatte di tessuto corneo. Addirittura poi ora sappiamo che molti erano persino piumati e abbiamo trovato, come dire, tracce del loro colore, quindi è molto plausibile che fossero molto vistosi come animali. In conclusione, Cao, Godzilla invece non è esistito. No, per ora no. Non avete trovato resti, no, Godzilla. Non è il suo argomento però. Però, siccome probabilmente molti pensano che Godzilla è esistito, il dinosauro bipede non c'era. Beh no, però il Tyrannosaurus Rex praticamente era bipede, sì, no? Agli arti anteriori molto poco sviluppati. Lo sono, però Godzilla ha la sfortuna di essere vissuto nel Pacifico e non ci sono molti fossili di dinosauro nel Pacifico. Sì, e poi c'aveva questa roba del fuoco che usciva dalla bocca. Che sì, esatto. Lì quelli sono i draghi, un'altra cosa. No, anche Godzilla. Va bene. Cao, grazie. Grazie a voi, buona serata. Torniamo un paio di settimane fa, quando durante lo Smart Urban Stage, concorso per nuovi idee di tecnologie volte alla sostenibilità e promosso da Smart Mercedes, io ero lì e ho intervistato Gianfranco Pellegrini, ingegnere che all'interno di Innovation Factory, un incubatore dell'area Science Park di Trieste, ha progettato Tina, la caldaia che non inquina. Cos'è questa storia? Sentiamo. Sostanzialmente le energie rinnovabili sono poco fruibili da parte dei vecchi edifici storici, degli edifici delle grandi città, europee soprattutto. Questo perché? Perché funzionano con i vecchi termosifoni, per cui si trattava di trovare un sistema che non fosse invasivo dal punto di vista delle lavorazioni, delle modifiche da fare, per realizzare degli impianti che oggi esistono per gli edifici nuovi che funzionano con impianti a energia rinnovabile. Quindi dicevo, realizzare un sistema plug and play dove si sostituisce la vecchia caldaia con un sistema che non ha emissioni in atmosfera, dove bastasse sostituire la caldaia vecchia con un sistema a energia rinnovabile. E quindi grandissima facilità di installazione, però poi in che modo riesce ad essere così poco inquinante? Allora, perché funziona con l'energia elettrica e non con l'energia bruciando del gas o del gasolio. Tutti dicono energia elettrica è un consumo micidiale, invece ecco, non è così. No, esatto, infatti dove sta il discorso? Dovendo andare ad essere installata nei condomini, il condomino difficilmente crede nelle energie rinnovabili. Se non c'è un qualcosa che si ripaghi da solo in un numero limitato d'anni, difficilmente decide di sostituire la sua caldaia con un qualcosa che costa di più, anche se energeticamente è più efficiente. Spiegare il funzionamento di Tina non è banale così in pochi minuti, però utilizza alcuni principi fondamentali della termodinamica e quindi certo, siamo in pieno nella cornice scientifica classica, però con delle idee che effettivamente riescono a modificare intelligentemente il rendimento. È ancora in fase di elaborazione finale, pensate che ha già fatto, mi pare, un primo test molto significativo, quando potrebbe essere licenziata e offerta al mercato? Ma dunque, sì, giustamente come dice lei, è stato realizzato un prototipo che dal punto di vista funzionale è già più di un prototipo per il fatto che è stato realizzato da un'industria del settore. Effettivamente siamo in fase di industrializzazione, ma l'industrializzazione riguarderà soprattutto la riduzione degli ingombri, la riduzione dei pesi, qualche ottimizzazione per ridurre i costi, però già quel prototipo sarà già praticamente il prodotto industrializzato. Mancano dettagli, sì. Arvea Marieni, che è coordinatrice, e adesso vediamo bene di quale progetto, per l'area Science Park di Trieste. E Tina non è da sola, ha dei compagni, delle compagne, è un progetto ben più ampio. Tina è uno dei primi 8 progetti che nascono sotto l'egida di un accordo speciale, di un protocollo d'intesa firmato tra il Ministero dell'Ambiente, dal dottor Clini e dall'area di ricerca di Trieste. Nella persona dell'ingegner Michellone, che è stato presidente fino al 31 di maggio, fino a poco tempo fa, assolutamente uno dei principali manager dell'innovazione del paese. Tina nasce come gli altri suoi 7 fratelli con il concetto There is no alternative, l'acronimo di Tina, e sono laboratori impianti dimostrativi, cioè l'area mette a frutto tutte le proprie competenze per lo scouting, la selezione di soluzioni tecnologiche innovative, le applichiamo nel settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, cerchiamo idee progettuali potenzialmente vicine al mercato, perché a noi interessa l'applicazione, ci interessa fare prodotti perché dobbiamo avere impatto. E perché specificamente nel campo delle rinnovabili impatto? Questo è un problema strategico del paese e dell'industria italiana. Noi dobbiamo ridurre la nostra non compliance rispetto a Kyoto, ed è il motivo per cui il Ministero dell'Ambiente, fra le tante cose di cui si occupa, si è rivolto a noi e ci ha sostenuto nel tentativo di dimostrare che si può fare ricerca applicata, si può farla in collaborazione con piccole e medie imprese che magari non hanno la capacità interna di fare R&D e si può farla con lo sforzo del comparto industriale, in questo caso il partner industriale è Ross IRSAP, che opera nel settore del condizionamento, oltre che nella produzione di radiatori, e si può farlo con l'idea di fare profitto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Questo argomento mi fa un po' senso, però ne so poco, può darsi che cambi idea. Potresti cambiarne idea, perché c'è una schiera di favorevoli, una schiera di contrari, proprio come per la vicenda dei neutrini. Di cui abbiamo parlato. Per parlarne, qui con me Chiara, che sa parecchie cose, soprattutto Agnese Codignolo, una nostra collega. Ciao Agnese. Buonasera a tutti, ciao. Giornalista di scienza, in particolare di medicina, biomedicina, di cui scrivi da tanto tempo. Allora il tema è, lo dico io, poi io vi ascolto, vi faccio delle domande quando sono preso da sensazioni strane, il tema è carne artificiale. Sì, sì, Agnese ha scritto un bell'articolo proprio su Nova, sull'inserto del Sole 24 Ore, il titolo la dice lunga, le staminali entrano in cucina. E me, come abbiamo detto nei titoli, quando le staminali entrano in cucina il dibattito si infiamma. Ecco, perché ovviamente la comunità scientifica si divide in due, si divide tra quelli che sono molto favorevoli, cioè quelli per cui la scienza fa il suo corso, si evolve e quindi deve andare da quella parte. Con la carne artificiale potremmo risolvere dei grandi problemi che potrebbero essere la fame nel mondo, come l'inquinamento, perché sappiamo appunto che l'allevamento animale tipo intensivo è molto molto inquinante. Ecco Agnese, tu a questo proposito hai scritto un articolo, perché è uscito un'importante ricerca proprio poche settimane fa di un ricercatore di Maastricht che appunto dice che entro un anno, vabbè adesso mi sembra particolarmente ottimista, però entro un anno potrebbe realizzarla. Il costo è ancora proibitivo, nel senso che è ovvio, è assolutamente vendita, fuori mercato, 250.000 euro per un hamburger, ma questi sono semplicemente... E poi c'è anche il pane in più. Ma com'è che ma si fa? Veniamo al punto, ditemi. Che cosa hanno scoperto, che cosa hanno dichiarato poche settimane fa da Maastricht? Ma dunque, intanto aggiungo solo un piccolo particolare, cioè un particolare che magari per qualcuno è piccolo ma per altri non lo è. Un altro delle spinte forti a lavorare in questo senso viene anche dal maltrattamento degli animali, no? Certo. C'è tutta una parte di comunità scientifica e non solo che è contraria ai macelli, eccetera. Non a caso questi studi negli Stati Uniti sono finanziati anche dalla PETA, no? Dall'associazione ambientalista. In realtà, dunque, diciamo, l'annuncio di questo ricercatore dell'Università di Maastricht ha gettato un po' un sasso nello stagno, nel senso che sono 10 anni che 4-5 gruppi nel mondo lavorano su questo argomento, quindi non è che si sono svegliati e hanno detto sentite, abbiamo scoperto, ecco. Però naturalmente quando poi questo tipo di notizie arriva ai media, subito diventa la notizia del giorno. Loro lavorano da molto tempo sulla possibilità di crescere la carne in laboratorio, no? E già bisogna stare attenti a non confondere questo tipo di studi con, per esempio, la carne clonata, che non c'entra nulla, o con gli animali geneticamente modificati. Per esempio, sempre negli Stati Uniti, perché in Europa è difficile che arrivi, ma si parla tantissimo del salmone geneticamente modificato, perché cresce molto di più. Ecco, qui siamo in un altro campo, cioè questi ricercatori hanno preso le staminali adulte per ora. Di suino, se non sbaglio, Agnese? Sì, però in realtà ci sono anche studi su tutti gli altri tipi di carne, dal pollo al coniglio, al manzo, eccetera. Si parte quindi dalle staminali, si coltivano con determinati brodi di cultura molto ricchi, eccetera, si ottengono degli aggregati, un po' così, degli abbozzi di quello che potrebbe essere carne, però poi se tu metti questi abbozzi in un bioreattore con uno scheletro di un materiale che poi si scioglie, quindi biodegradabile, e a temperatura eccetera eccetera, alla fine ottieni queste per ora striscioline che sentendo la loro descrizione sono disgustose. Sono tremende, la scienza procede per piccoli passi, no? Nel senso che sono delle striscioline grigie, un po' gelatinose, da cui domani dovrebbe arrivare l'hamburger, diciamo. Ecco, grigio, hai fatto bene a specificarlo, perché esatto. In realtà ovviamente non c'è il sangue, quindi manca tutta la parte... Quindi non sarebbe più rossa, sarebbe un po'... E ovviamente grigetta. Per renderla appetibile... Sono due problemi. Cioè, uno che non ci sono proprio i vasi sanguigni, e questo tutto sommato uno potrebbe dargli le cose che ci sono nel sangue. Però la cosa che rende la carne poi anche dal punto di vista organolettico gradita, diciamo, noi umani, gustosa, è anche l'emoglobina, sì. Cioè questa proteina che è come l'emoglobina, no? che la fa diventare rosso, trasporta il ferro, eccetera. Infatti una delle cose secondo me abbastanza divertenti di questi esperimenti è che loro, siccome la mioglobina normalmente si forma con l'esercizio fisico aerobico, no? Viene stimolata la sintesi, loro stanno riproducendo, cercando di riprodurre l'esercizio, la palestra nella provetta. Cioè, per intenderci, i tessuti che loro creano non sono, cioè sono muscoli, ma non sono ovviamente allenati, quindi non sono massa. Quindi questo è un problema, perché la carne ovviamente non è che possiamo farla andare al pascolo. Certo, perché l'animale si muove. E quindi loro hanno trovato una piccola spa per queste striscioline grigie, una roba del genere. Dovrebbero trovarlo. Uno sono comunque stimolazioni elettriche, per cui l'altro metodo più divertente è che li mettono su del velcro, naturalmente sterile, eccetera eccetera, e strappano questo velcro in modo automatico, e questo movimento di strappo continuo fa una specie di... Ma sa un po' di maialotto? Ecco, qual è il punto? Può dirlo, direbbe. Dunque, non si sa perché oggi tutte le normative sulla ricerca impediscono di assaggiare, di far provare a qualcuno una qualsiasi cosa che sia stata cresciuta con dei brodi di cultura animali, che sono la norma, cioè in qualsiasi laboratorio, fra qualunque sistema vivente, tu oggi usi dei sistemi derivati in genere dalle mucche, eccetera. Però sono già molto avanti nella preparazione di brodi di cultura totalmente vegetali o comunque fatti con cianobatteri, perché hanno delle caratteristiche particolarmente favorevoli. Scusa Agnese, ma perché non è proibito? Perché potrebbe far male? Perché questo è uno dei paradossi di questo settore. Da una parte alcuni sostenitori dicono: se noi facciamo la carne in laboratorio non ci sarà mai più un problema di mucca pazza, per intenderci, di aviaria, eccetera, di malattie. Però dall'altra, siccome sono per ora cellule cresciute con estratti animali, il pericolo è lì, cioè le leggi, le normative sulla sicurezza delle ricerche biomediche dicono che tu non puoi dare da mangiare, anche solo da assaggiare dei volontari, una cosa che è cresciuta in un sistema, diciamo, animale, perché non sei sicuro che non esistano dei virus che tu non conosci e che scatenano chissà cosa. È un po' un circolo vizioso, a prima o poi bisognerà assaggiarla, perché infatti ci si sta arrivando. Io credo che questa strada delle alghe, dei cianobatteri, sia senz'altro percorribile, In quel caso diciamo che potrebbe essere gustabile, assaggiabile. Esatto, sicuramente, al di là dell'aspetto fisico, su cui peraltro si può lavorare abbastanza facilmente, insomma, però è proprio il gusto, cioè deve essere una cosa che comunque poi le persone riescono a mangiare, no? Vi chiedo, potrebbe essere che venga fuori un prodottino che ha dentro tutti gli ingredienti importanti, proteici, che sappiamo, no, ci sono nella carne, ma si possono trovare anche in altre cose, e che però non sa di carne. Allora a quel punto perché dobbiamo parlare di carne artificiale, no? Questa è una, esatto, ma poi questa è un'altra divisione tra i ricercatori che se ne occupano, perché ci sono quelli che puntano a farla diventare una produzione di massa, cioè proprio io la mucca la vedo e mi piace e la lascio lì, la vedo pascolare e non la mangio più, non la uccido più. Invece ci sono altri ricercatori che dicono comunque non sostituirà mai la carne dell'animale, per cui tanto vale puntare direttamente a prodotti di nicchia. Per esempio, un aspetto interessante è anche questo, che un domani si potranno modificare le percentuali dei nutrienti, no? Chiaramente se tu parti dalla cellula staminale puoi dirgli fai meno grassi, fai più vitamine, allora diventa un cibo cosiddetto funzionale, però per ipso facto diventa un cibo di nicchia, non è più quello che mi sostituisce l'allevamento massivo, no? E poi Agnese, dimmi se sbaglio, ma diciamo che il punto di vista del gusto è quello che forse interessa un filo meno, perché poi con additivi o con qualche aggiustamento quello in qualche modo possiamo renderlo appetibile. Il problema credo che proprio sia la consistenza, l'aspetto, renderlo in qualche modo comparativo. Credo anch'io che sia così, da una parte, dall'altra il problema veramente al di là del, diciamo, del suo destino, ma comunque il fatto che poi dovrebbe essere un prodotto sottoposto a una produzione industriale, anche se di nicchia, fa sì che, insomma, i problemi legati ai finanziamenti sulla ricerca, perché anche le fabbriche che poi faranno questa carne devono essere messe a punto a loro volta, no? Quindi c'è un grosso problema ancora di finanziamenti, perché c'è molta diffidenza. Ecco, sì, infatti. Per esempio Post mi diceva che dipende da vari elementi. Uno, che le persone, in generale l'opinione pubblica, sente come completamente alieno questa idea di mangiare della carne cresciuta in laboratorio, quindi insomma è difficile. L'altro è che le aziende, le grandi aziende che di solito finanziano ricerche anche molto pionieristiche, in questo caso per ora non vogliono associare il loro nome alla carne artificiale, cioè anche la multinazionale di carne, piuttosto che quelli che fanno hamburger o pollo fritto, vogliono essere associati alla carne artificiale. Quindi c'è un grosso problema, e questo naturalmente fa sì che si stia andando un po' a rilento rispetto, diciamo, alle potenzialità, e che per ora i costi sono stellari, come dicevamo prima, no? Perché sono quelli sperimentali. Che la cosa fa è un po' impressionante, è un stupefacente, però allo stesso tempo dobbiamo pensare che prima o poi le riserve di questo tipo si esauriranno, che l'inquinamento legato proprio agli allevamenti intensivi sono estremamente inquinanti, e addirittura Margherita Hack si è schierata a favore di questa cosa, perché dice è l'evoluzione della scienza, non ci possiamo fare nulla, nel senso che è una cosa favorevole, ci aiuta a migliorare, perché andando avanti ovviamente la popolazione sarà sempre più numerosa e le risorse sempre più scarse, chiaramente. E quindi qualcosa si dovrà fare. Devo dire che i numeri sono abbastanza impressionanti, cioè, perché questo è il classico argomento che si presta a posizioni ideologiche, no? Sì, la scienza per la scienza, no, orrore, il cibo Frankenstein, eccetera. Se uno prova a vedere i numeri della FAO, quindi non di un partito, scopre che per esempio oggi si producono nel mondo ogni anno 285 milioni di tonnellate di carne, e che questa produzione consuma, non so, quasi il 10% di tutta l'acqua che c'è sulla terra, il 75%, cioè tre quarti di tutto il terreno coltivabile è adibito ad allevamento o a coltivazione del mais, che noi gli diamo da mangiare, che poi soprattutto i bovini non dovrebbero neanche mangiare mais, no? Sì. Sono tutti numeri, ce ne sono tanti, tutti di queste proporzioni, veramente impressionanti. Se si pensa che già oggi siamo 7 miliardi e che nel 2050 probabilmente saremo 9 miliardi. Sarà meglio darsi una mossa, tu dici? No, quantomeno affrontare, cioè certo, cominciare ad affrontare il problema. Certo. Allora, o si smette di mangiare carne, e vabbè, può essere un'idea, però anche lì trovare le proteine vegetali che sostituiscano appieno quello che ci dà la carne è difficile, perché anche lì vorrebbe dire allora sfruttare la terra in un altro modo ancora sì, intensivo, no? C'è anche quell'altro dato, no, Agnese, da ricordare, ma in conclusione, che le emissioni meteoriche degli allevamenti, per chi non lo sapesse, sono una quota di CO2 ma molto grossa che va in atmosfera. Da quel punto di vista, quella artificiale non, sarebbe non esente. Ha questi problemi. No, beh, se mi fanno fare molti esercizi, vabbè, vediamo. Grazie Agnese. Grazie a voi. Buon lavoro. Arrivederci, grazie. E con la carne artificiale ci lasciamo questa settimana, Chiara. Beh, sì. Del resto tu con la cucina scientifica poi fai sempre quelle robe lì col piombo, il gelato col mercurio. No, cioè, vabbè, no, queste robe qui sono dentro. Sono ancora viva e quindi non è nulla di tossico e di mortale. Va bene, va bene. Buona settimana a tutti e a tutte. Ci sentiamo fra 7 giorni.